24 mattino. L'Italia si desta. 7000 caffè li ho già presi perché sono stanco di stare al volante. Buona giornata, 6 e 26 minuti. Peter Bescapè già qui pronto, anche Lorenzo Nespoli da Anna Migliorati. Buona giornata e buon caffè. 7000 caffè. Pronti a cominciare anche questa giornata? Come abbiamo detto in questi giorni, avete pronta la vostra macchinetta del caffè, perché vi voglio già svegli, mi raccomando. 349-238-6666, c'è molto di cui chiacchierare anche questa mattina. Ho bisogno di te. E allora già subito cominciamo con un primo assaggio. Expo Gufi, Expo Ottimisti, vi siete scatenati in questi giorni aspettando l'Expo, 21 giorni ancora tutto da fare. Ieri l'ultima polemica l'abbiamo letta insieme, il famoso decumano che non ci sarà, la scenografia hollywoodiana di Ferretti che non ci sarà. Ha risposto Sala. Avrà molte ragioni, noi oggi stiamo cercando di fare una corsa per portare le sue installazioni in Expo coi tempi giusti, obiettivamente siamo stati un po' in ritardo. Obiettivamente un po' in ritardo, la corsa italiana, ormai in questi giorni vi siete scatenati tra chi sostiene che ce la faremo e chi sostiene che non ce la faremo questa volta invece, per essere davvero pronti. Allora saluto i nostri ospiti di oggi, Carlo Rienzi, presidente Codacons, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Si può stare una settimana senza Alessandro Milan, ma non senza Carlo Rienzi alle 6:30, E Stefano Zurlo, giornalista del Giornale, benvenuto, buongiorno, ben svegliato. Buongiorno. Allora, subito la domanda anche a voi, che in questi giorni si è un po' scatenato il nostro dibattito. Zurlo, Expo Gufo o Expo Ottimista? Ma a questo punto dobbiamo essere Expo Ottimisti, tanto i gufi sono tutti presenti e fanno la loro parte giustamente. Quindi portiamo un pochino di ottimismo e diciamo che ce la facciamo, ce la faremo, ce la faranno. Non si sa bene a che cosa, ma ce la faremo. E non si sa bene quando. Si sa bene perché, vabbè, tanto quando si accumulano ritardi, litigi, divisioni, polemiche, tanta polvere e tanta sabbia, poi alla fine la polvere rimane addosso a chi ha litigato. È chiaro che c'è il ritardo, c'è Ferretti che protesta, c'è quello che non ce la fa, c'è il padiglione, c'è il camouflage, c'è tutto quello che sappiamo. Diciamo però che, come tante altre volte nella storia italiana, è un po' il nostro stile. Ma no, poi alla fine in qualche modo qualcosa si farà e qualcosa rimarrà. È da vedere cosa. La polemica sulla metropolitana, che si arriva a inaugurarla praticamente in partenza dell'Expo, non un mese prima o tre mesi prima, il giorno prima. C'è da sperare che funzioni, perché sennò lì sì, una bella figuraccia. Carlo Rienzi, Expo Gufo, Expo Ottimista? Ma guarda, io credo che bisognerebbe essere più realisti, cioè dire noi queste cose non le facciamo, è inutile continuare a fare tutto di corsa. Poi sono anche un po' preoccupato per come funzionerà, perché se le cose vanno di corsa, avete visto il ponte lì in Sicilia che è crollato della strada, perché è pericoloso, cioè si fanno le cose, come si dice a Napoli, arronzate, cioè le cose che poi si rompono. Speriamo di no, ma non è il caso. Secondo me bisogna dire questo è veramente una battuta, ma l'altra mattina un nostro ascoltatore al 349-238-6666 ci scriveva: speriamo che abbiano pensato anche alle zanzare con tutta quell'acqua, perché siamo pur sempre nella pianura padana. Questo ovviamente però è la battuta da aggiungere. Sì. Zurlo, Rienzi, pone anche un problema serio, che poi c'è anche la sicurezza. Il problema di sicurezza, no, su cui non abbiamo nessun controllo, nessuna possibilità di dire, nessuno ci ha detto, cioè, stiamo controllando pezzo pezzo che quello che stanno facendo di corsa, lavorando pure la notte, sia fatto con la regola d'arte, e poi si scoprirà che qualcuno ha messo a posto, non lo so, speriamo di no, a posto della calce. Speriamo proprio di no, Zurlo. Però la paura c'è. Zurlo. È vero, però non è che possiamo vivere sempre di paure o di sospetti o di ambizioni mancate. Per esempio sulle Olimpiadi io ecco esatto, lo stavo per dire negativo, io ma sull'Expo no, sull'Expo le valeva la pena farla secondo ambizioni me, mancate rimane. Anche questo è un altro forse male italiano, ma forse ne abbiamo appunto discusso tanto sulle Olimpiadi, ma le Olimpiadi sono un'altra cosa. Secondo me le Olimpiadi vanno bene per un paese. È una macchina molto più complessa di un Expo. Ma secondo me le Olimpiadi vanno bene per un paese come era l'Italia degli anni 70 che si affacciava al benessere, per un paese, mettiamola così, emergente. Per un paese emerso e che poi rischia però di riaffondare come l'Italia, le Olimpiadi dico di no. Ma l'Expo è una cosa un po' diversa, non la metterei sullo stesso piano, certo. Tutti i grandi avvenimenti lasciano molti punti di domanda, perché poi alla fine bisogna fare i conti e dire, al di là dei titoli, al di là della grandeur un po' effimera, che cosa lasciano, che cosa resta. Io dico che qualcosa a Milano rimarrà dell'Expo, adesso ci dobbiamo ancora arrivare. Gli svincoli, ma... ha scritto un nostro ascoltatore, almeno rimarranno gli svincoli. Vi faccio sentire anche... Speriamo che finiscano anche le superstrade che portano agli svincoli. Sì, perché se no restano davvero solo gli svincoli. Vi faccio sentire anche Franceschini ieri. Stiamo organizzando di portare a Milano all'Expo il 31 luglio e il 1 agosto i 140 ministri della cultura dei paesi che saranno a Expo. Vogliamo davvero far capire che l'Italia è un paese guida nel settore della cultura, non soltanto nel settore del patrimonio, ma anche nel settore delle industrie culturali e creative. È un paese guida, se ci fosse il G8 della cultura noi staremmo in G1, e vogliamo recuperare questo ruolo di guida per il nostro paese e per Milano. Scrive un nostro ascoltatore, potrebbe servire per cambiare l'opinione sull'Italia e sugli italiani. Rienzi, beh, proviamoci. La cultura dovrebbe andare di pari passo con l'onestà, perché se pensiamo che per il giubileo già due caffè e due cornetti a San Pietro costano 34 euro e che gli alberghi a Milano sono saliti del 30, 40, 50% di prezzo, ma una cosa logica è questa. I ministri quando verranno qui di tutti i paesi diranno ma sai che paese è caro. Beh, ma magari il caffè glielo offrono. Sono 140 offrono, però, ma 140 gente... ne ha invitati Franceschini. Sì, ma dico, la gente però è abbastanza arrabbiata di questa cosa dei prezzi. Non si può speculare su questo evento. Bisognerebbe la prima cosa controllare che non venga fatta speculazione in occasione del giubileo, in occasione di Expo, in occasione di eventi dove il paese dovrebbe rimanere da quel punto di vista onesto con me, cioè non dovrebbe dire io sfrutto il momento, tu vieni, paghi il biglietto e paghi pure il doppio l'albergo e paghi il doppio il caffè e il cornetto. Questa è cultura, non è solo quella di Franceschini. Zurlo. Ma guarda, questo discorso del G8 dell'Italia che è il numero uno della cultura fa un po' parte della pacchianeria, della grandeur di cartapesta del nostro paese, dove ci dobbiamo mettere in mostra e mettere in mostra l'argenteria di famiglia, quando poi ogni volta che apriamo la credenza spacchiamo le cose, rompiamo le cose, ce le dimentichiamo e le roviniamo. Io dico, se per essere sempre ottimisti, se con l'Expo arriva qualche risultato concreto, ben venga. Esempio, a Milano tuttora la sera è impossibile andare a vedere l'ultima cena di Leonardo, che pure è uno dei capolavori dell'umanità. Beh, allora, se adesso, come si dice, perché anche questa è una cosa che stanno definendo in corsa all'ultimissimo minuto, arriva lo sponsor e piazziamo che si può andare all'Expo intanto, andare a vedere alle 9 di sera l'ultima cena, e questo rimane per il futuro, è un risultato che ci siamo portati a casa. Io sono cresciuto, Expo non Expo, a Milano, leggendo i giornali, sentendo sempre la stessa cosa, che si realizzava la Grande Brera. Se oggi apri un giornale e leggi gli articoli sulla Grande Brera, sono gli stessi che leggevo, le stesse identiche cose, si fa, non si fa, Palazzo Cittero, c'è il ricorso, non c'è il ricorso, il TAR, i soldi, non i soldi, che leggevo quando ero bambino, 35-40 anni fa. Se uno oggi si chiude gli occhi e toglie la data, siamo ancora lì, siamo ancora lì. 35 anni fa, 40 anni fa, queste sono le tragedie della cultura, e non siamo qui, da questo punto di vista siamo G ultimi, altro che G1, G2, G3 o G8, però anche qui ripeto, se qualcosa si fa e qualcosa si sta facendo in extremis, lo spostamento della pietà di Michelangelo. Ma è possibile però che dobbiamo sempre arrivare in extremis? L'importante è arrivare, però. L'importante è arrivare, Renzi. No, dico, noi stiamo per esempio cercando di portare a Expo i comuni italiani che, poverini, sono rimasti fuori. Beh, hanno altri problemi in queste ore. Appunto, però, siccome sono anche eccellenze, abbiamo noi un portale che si chiama Italive, dove ci sono centinaia di comuni che si presentano per dire: guardate da noi cosa facciamo di bello, di buono, cosa facciamo da mangiare, eccetera, eccetera. Allora, con Coldiretti e Autostrade per l'Italia stiamo cercando di fare nello stand di Coldiretti un posto dove una volta a settimana un comune viene e si fa conoscere i suoi prodotti, le sue eccellenze, le sue opere d'arte, se vogliamo, portandole e rappresentandole in qualche modo. Questo perché bisogna spostare Expo su tutto il territorio italiano, non si può soltanto limitare a Milano. Questo dovrebbe fare Franceschini. E dovrebbe essere un modo per far conoscere l'Italia tutta, è inutile concentrarsi sul cibo e su Milano, è un'occasione in cui bisogna dare al territorio una possibilità di esporsi effettivamente. Esporsi, ma non siamo riusciti a sistemare Milano, tutta l'Italia, Stefano, comincia a diventare un po' tanto, insomma, da portare lì, ammesso che veramente sia una vetrina, perché c'è anche chi questi dubbi li ha. Ma no, è una vetrina, l'importante è arredarla la vetrina, perché se poi arrivano appunto gli stranieri... Arredarla, certo. Vedono che sulla vetrina c'è solo qualche paccottiglia, prezzi pure elevatissimi, come accennava prima Renzi sul caffè, e allora è un problema. E qui ci sgamano. Allora dicono, ma sono un po' i soliti furbacchioni gli italiani. Ma non voglio farla facile con la mitologia degli italiani, che comunque sono fantasiosi, creativi e alla fine se la cavano, perché poi molte volte caviamo. Puntiamo sempre su questa cosa, insomma, alla fine se la cavano. E no, io continuo a tornare lì, insomma, sempre alla fine però. No? Sì, alla fine della fine qualche volta, e ripeto, si pagano ritardi, si pagano errori. E potremmo parlare delle corruzioni, perché prima dell'Expo c'è naturalmente la corruzione sull'Expo, e prima dell'inaugurazione del padiglione c'è l'arresto e l'avviso di garanzia sul padiglione. Ma sembra ormai faccia parte della scaletta dei lavori, insomma. Sì, fa parte della scaletta dei lavori, scaletta. Però, ripeto, qualcosa secondo me in questa occasione rimarrà. Non voglio essere ottimista a buon mercato, ma io, come citavo prima Leonardo e Michelangelo, se solo la fruizione, per usare un altro termine che si usa spesso in questi casi, di Leonardo e Michelangelo a Milano cambia e resta qualcosa in più, per me vale la pena. Ci abbiamo guadagnato. Certo. L'ultima battuta, Renzi, poi parliamo anche d'altro, perché sì, c'è anche altro. Ho sentito un borbottio sotto. No, sto dicendo che ha ragione, cioè... La vetrina bisogna arredarla, riempirla, e allora il tentativo dovrebbe essere quello. Io insisto, non mi sembra una cosa da non fare, quella di portare l'Italia, siccome vengono tutti questi paesi, e Franceschini adesso si ricorda che abbiamo le opere d'arte, e da mo' che ce l'abbiamo. In Italia non c'è mai stata una politica culturale sul turismo, proprio zero, non c'è mai stata. Se vai a Pompei sappiamo quello che trovi, se vai nei posti dove dovresti trovare l'arte veramente, quella che conta, sai che oltre ho chiuso e lì le vetrine rotto, sono arredate non benissimo. Bisogna andare lì e portare il territorio, tutto il territorio, bisogna fare questo sforzo in questa direzione. Mi sembra l'unica cosa importante è giusto da fare in questo momento, dimenticandosi per un attimo dei ritardi, dimenticandosi delle opere non finite e così. Vediamo poi in concreto che succede, che dobbiamo fare. Aspettiamo, ci siamo. Per cui ci siamo quasi, vedremo. I conti poi li facciamo davvero. Vi faccio sentire però qualcun altro che invece intanto si è arrabbiato moltissimo ieri sera dalla Gruber. Elisa Isoardi, tra l'altro una bellissima ragazza, vediamo qui l'ultima copertina di Chi, dove ci siete voi due, dicono che vi hanno immortalati al primo bacio, eccetera, eccetera. A questo punto è la fine del giallo? No, ma mi scusi, io vorrei essere giudicato per quello che faccio politicamente sul lavoro, sull'immigrazione, sulle tasse, sull'agricoltura. La mia vita privata, come quella di qualunque altro italiano, come la sua e quella della Serracchiani, sono problemi suoi, della Serracchiani e miei, che non interessano agli italiani. Ma mi dispiace Salvini, è da qualche decennio ormai che i politici devono rendere conto anche della propria vita privata, però adesso non intendevo assolutamente no, fare di quello che fanno, di quello che fanno e di come si guadagnano lo stipendio, non delle persone che frequentano o non frequentano. Io avrei preferito invece di leggere donna, delle intercettazioni del Bunga Bunga di Berlusconi, avrei preferito le intercettazioni del Monte dei Paschi di Siena. Ma scusi, devo venire a dire a lei e alla gente che ci sta guardando cosa faccio io? Arrabbiatissimo! Arrabbiatissimo Salvini con la Gruber. Giudicato per quello che fa e per quello che dice, allora sentiamo anche cosa ha detto ieri. Cosa farei io al posto di Alfano o di Renzi? Do un preavviso di sfratto da qui a 6 mesi. In Europa non esistono i campi rom, quindi da qui a 6 mesi io preannuncio la ruspa in tutti i campi rom. Ti organizzi, ti attrezzi, la casa la compri, l'affitti, la chiedi, fai il mutuo come tutti gli altri cittadini, e io fra 6 mesi spiano, cioè, rado al suolo, chiudere i campi rom tutti. Zurlo, da dove partiamo? Dalla vita privata o dalle, privata, o dalle parole? Ma partiamo dalla vita privata. Allora, Salvini si arrabbia, però tutti i personaggi pubblici, ma anche semipubblici, ma anche semiprivati, vengono raccontati, gli fanno i raggi X, e questo fa parte del nostro mondo. Giusto o sbagliato che sia, è così, e non è che Salvini arriva e si può indignare o arrabbiare per quello che è un costume generale. Il tema delle intercettazioni, quello è un tema giusto da porre, quello può andar bene, però è una cosa leggermente diversa, cioè le intercettazioni, speriamo che si faccia questa legge, quella è come la grande Brera di cui parlavo prima, è da 20 anni che legge. Anche quello è un cantiere infinito. Sì, anche 20 anni che leggo di questa legge, 20 anni che discutiamo e non si è fatto nulla. Si faccia una legge in cui non solo si regola la pubblicazione, ma secondo me anche l'intercettazione in quanto tale, perché non è vero che bisogna intercettare sempre e comunque poi dopo si vedrà. C'è un abuso dell'intercettazione in Italia, ma abuso proprio nel modo di farle, perché ci sono personaggi pubblici, privati, famosi, non famosi, che vengono intercettati per anni e anni, poi c'è un bello sputtanamento e poi alla fine... Boh, si vedrà. L'esempio più famoso che mi viene in mente è Vittorio Emanuele, è diventato argomento da bar, tutti ne ridevano, è stato in galera, poi dopo qualche anno gli hanno detto, boh vabbè non importa, manco si va a processo perché le accuse non c'erano, manco si arriva al dibattimento, nulla di nulla, e però lo sputtanamento è rimasto. E questo è un esempio, Vittorio Emanuele, che insomma è un po' nel bene o nel male i Savoia, la storia d'Italia, la monarchia è finita con la Repubblica, che ha dovuto risarcire la monarchia per tutto quello che era successo, per l'ingiusta detenzione e compagnia. Questo è un esempio e questo è molto importante. E sui campi rom, che devo dire, noi siamo a Milano dell'Expo, basta andare sui Navigli, nella zona dove si faranno anche il fuori salone del mobile, dove ci sono gli atelier, gli incontri, ci sono i rom che girano. E questo, visto che girano senza arte né parte molti di questi, questo genera purtroppo genera razzismo, genera rabbia, genera frustrazione nell'opinione pubblica, nella gente, che poi Milano è una città inclusiva, è una città che accoglie, ma a furia di seminare situazioni negative la città diventa più cattiva, diventa più rancorosa, perché non capisce. Radere al suolo è stata una provocazione forte. Ma radere, non c'è niente da radere al suolo, c'è da ordinare un po' le cose, basterebbe un po' di ordine, basterebbe intervenire quando si deve intervenire, quando tu vedi per esempio una persona, ma rom o non rom, ce ne sono a Milano, che ruba 10, 50, 100 volte e poi la vedi sempre in giro, magari pure col cacciavite in mano, e viene fermata per 5 minuti e poi lo mettono fuori e cambia identità e cambia nome e con gli alias 10, 30, 50, 100, va avanti all'infinito, vanno rasi al suolo gli alias, vanno rasi al suolo i finti processi, vanno rasi al suolo le cose virtuali e la giustizia virtuale che non funziona, quello deve essere raso al suolo. Funziona la provocazione di Salvini? Funziona. Nel senso che sulla pancia di tanta gente fa l'effetto della pastiglia quando uno non ha digerito e finalmente digerisce e anche rumorosamente ed è tutto contento di aver digerito, ma il problema non è risolto. Una pastiglietta di Renzi. Renzi, tra pochissimo, parliamo ancora di Salvini, c'è il traffico prima. Caro Milan, goditi le tue vacanze, noi speriamo in una settimana migliore, anzi, migliorata. 24 mattino. Le soluzioni ci sono, basta avere una visione e basta ricercarle. C'è invece chi non le vuole trovare le soluzioni, perché questo frutta politicamente e questo è veramente triste. È la Boldrini che replica così a Matteo Salvini, Renzi. Ma secondo me adesso si avvicinano le elezioni, le sentiremo di tutti i colori, ma questi politici non hanno capito che la gente si è stufata, non crede più a queste fesserie, cioè quello pensa che dicendo così prende i voti di quelli che sono contro, no, i Rom, contro la gente che va per strada a pulire i vetri e così via. Non si rende conto che poi gli anziani vengono tenuti da queste persone, dalle badanti, da persone che sono essenziali nella nostra società in questo momento, quindi non serve proprio a niente, sono battute che servono per andare sul giornale e i giornali, questa è colpa pure vostra che... Il vostro non c'è un giornale voi, ma insomma dei giornalisti. Pensavo, aiuto, ero già pronta a dire aiuto adesso. Andate a mettere poi il titolone, Salvini ha detto il capo, ma non ignoratelo, non è possibile. Riguardo poi le intercettazioni, quella invece è una cosa grave, molto grave, perché c'è un'ipocrisia di fondo. Noi leggiamo tutti i giorni sui giornali i processi in istruttoria, ma lo sapete che c'è il segreto istruttorio? Cioè gli italiani lo sanno, secondo me non se ne sono ancora accorti che c'è il segreto istruttorio, perché sembra che i processi e le indagini si fanno sulla stampa con la pubblicazione degli interrogatori, delle intercettazioni, cioè, eliminare il segreto, il problema è eliminarlo completamente in modo che si possa dire che abbiamo tutto. Un piccolo problema, Azzurro, che con quello che durano i processi in Italia dovremmo parlare di quello che è successo 10 anni fa. Vabbè. Beh, anche 20. Anche 20. Anche, cioè... 20 anni, anche 20 anni fa, perché, se aspettiamo... perché in Italia l'intercettazione, diciamo la verità, l'intercettazione è un modo di, è una specie di giustizia al volo che si fa per la soddisfazione dell'indignazione generale e tutti sono contenti perché leggono il titolo in cui si parla di questo, di quello e dicono benissimo, è stato giudicato, l'abbiamo messo nella gabbia in mezzo a tutti, adesso siamo tutti contenti perché gli abbiamo dato una bella sentenza di sputtanamento. Il sistema regge, ma con una giustizia più veloce, però, cioè, parliamo solo dei fatti. Basterebbe un po' di, appunto, basterebbe più veloce, insomma, di una giustizia che arriva nei tempi giusti, come si dice, i tempi giusti. Qua i tempi si calcolano sempre, appunto, in anni, anni e anni, e questa storia di continuare a spostare la prescrizione è un'altra, secondo me, malattia italiana, dove si scambia la causa con l'effetto. Non è possibile che per ogni cosa si dica, e prendiamo adesso, parlavamo prima del G8 della cultura virtuale alla Franceschini, parliamo del G8 di Genova e si arriva a fare giustizia, si fa per dire, dopo 10, 11, 12 anni, e allora si dice bisogna introdurre il reato di tortura perché lo dice l'Europa, cambiamo la prescrizione. E poi Casale Monferrato, l'amianto, dopo 25-30 anni arriva il processo, arriva la sentenza. Parliamo ancora di Ustica sui giornali di quest'oggi. Ho scritto oggi di Ustica. E parliamo ancora di Ustica. Che va avanti da 35 anni, in cui è stato detto, questa è un'altra, diciamo le cose veramente, che è una vergogna italiana, ma non Ustica, ma il festival delle sentenze su Ustica, è il missile, no, non è il missile, è la near collision, no, non è la near collision. E allora che cosa sarà? È la bomba a bordo, come dicevano i autorevolissimi periti, tra cui il festival Frank delle Taylor, sentenze. No? E siamo alla fine che ognuno dice quello che vuole, la giustizia penale non ha concluso niente, la giustizia civile ci dice che è un missile, non ho capito dove l'hanno stabilito loro che è un missile, dopo 30 anni che si accapigliano e dopo che sono andati in fondo al mare a recuperare il relitto, e hanno stabilito tutto e il contrario di tutto. Questa è la verità. Arriva la giustizia dopo 20, 30, 40 anni, avremo altre sentenze ancora e ognuno dirà quello che gli pare. Spiace, ma è così. C'è un altro costume italiano, visto che parliamo di costumi italiani, che comincia alle 8 di questa mattina e più tardi allora ne parleremo. La sensazione è che il DEF di Renzi abbia la stessa validità scientifica dell'oroscopo di Paolo Fox. Solo che Paolo Fox ha la decenza di fermarsi alle previsioni di un anno. Renzi, da sborone qual è, si spinge fino a 3 anni. Però io, grazie al DEF, posso prevedere i prossimi 3 anni. E infatti cosa vuol dire DEF? Dovremmo essere falliti. Scusate se rido, naturalmente sto scherzando. Noi siamo già falliti. Ve lo dico però fra 3 anni, quando torna Letta, così date la colpa a lui o a Paolo Fox. Carlo Rienzi, alle 8 l'incontro tra Renzi e i sindaci, e i suoi sindaci, perché continua, da lì viene. Anche questo, in fin dei conti, è un teatrino che vediamo tutte le volte o c'è qualcosa di diverso? No, secondo me non c'è nulla di diverso, perché si parla di soldi e i soldi non servono adesso in quanto tali, bisogna valorizzare, quindi i sindaci secondo me dovrebbero, loro innanzitutto, e Renzi dovrebbe sollecitare i sindaci, non vorrei tornare sull'argomento, a valorizzare quello di bello, di eccellente che viene fatto nel loro territorio. Questa è la vera ricchezza del nostro paese. Senza questo non si va da nessuna parte, quindi è un discorso che va cambiato completamente e non va fatto un discorso semplicemente mi hai dato poco, mi hai dato molto. Troviamo un sistema con i soldi dello Stato di valorizzare questi aspetti del territorio che sono un modo per dare soldi, cioè non è dando i soldi veri, ma dando i soldi come valore che si può risolvere il problema. Però dovrebbe essere un problema, cioè, niente soldi veri, non lo so, la cultura anche qui senza però i soldi. L'ultimo sorso di caffè, perché ci siamo quasi al giornale radio, Zurlo, teatrino? Il teatrino, beh, se posso dire una cattiveria per Renzi, per non Renzi. Beh, ne abbiamo dette Renzi, tante, no, ce ne sta ancora una. Per Renzi, Kodakos, le badanti rom, non le ho mai viste io in giro a Milano, le badanti rom, quando diceva che erano solo titoli di giornale, per fare una polemicuccia nella polemica, perché il tema è vero, e il tema invece di Renzi, senza la I, ma sai, lì diceva giustamente Tremonti che gli unici tagli che funzionano sono i tagli lineari, perché sono stupidi, perché non pensano. È arrivato Renzi, senza la I, Presidente del Consiglio, e ci ha detto ma no, io farò la spending review, perché io poi accorpo le polizie, abolisco la motorizzazione. Sarà che li ha convocati alle 8 di questa mattina, perché Cottarelli dorme. Poi, perché fino ad adesso appunto ha tagliato, oltre ai tagli che non ha fatto, ha tagliato solo Cottarelli per adesso. Quindi se comincia poi veramente la spending review siamo contenti. Per ora ha fatto quello che hanno fatto appunto i suoi predecessori, un po' anche quello all'italiana. Tante chiacchiere e poi alla fine ha detto a te arriva 10, no da oggi è 7, che tu sia comune, che tu sia provincia, che tu sia regione. Del resto il federalismo fiscale in Italia funziona così, lo Stato toglie con una mano e il comune rimette con l'altra. Naturalmente sto parlando di tasse e di imposte, non di servizi. Questo è stato il federalismo all'italiana. Basta fare i conteggi che le addizionali locali, a furia di addizionarle, le tasse sono aumentate in un modo esponenziale negli ultimi anni. Sulla casa abbiamo visto che siamo passati da 9 a 25 miliardi di tasso, chiamatele come volete, sulla casa nell'arco di 3 anni. Taglio da una parte, arriva dall'altra. Alle 8 la resa dei conti, vedremo come sarà. Siamo davvero all'ultimo sorso di caffè, Peter Vescapè, eccolo, inesorabile, perché c'è il giornale radio. Grazie allora Carlo Rienzi, grazie a Stefano Zurlo, giornalista del giornale. Buon caffè, giornale radio, poi ci risentiamo con la rassegna stampa. 24 mattino. Ancora una buona giornata da Gianna Migliorati, eccoci pronti con i quotidiani in edicola, la nostra rassegna stampa, come sempre un excursus su quelle che sono le notizie di quest'oggi sui quotidiani che troverete in edicola. Allora, le notizie sono diverse, quindi questa mattina diverse le aperture, ci sono anche diverse interviste, le vedremo tra poco. I temi comunque essenzialmente sono il famoso DPF, il documento di programmazione economico-finanziaria che il governo discuterà tra un'ora alle 8 con i sindaci italiani, prestissimo sono stati convocati a Palazzo Chigi e quindi sono sicuramente già in marcia i sindaci italiani per incontrare il premier Renzi, ne parleremo anche noi. E poi ancora la bufera dopo la sentenza di Strasburgo sul G8 e il parricidio in Francia, come già si è definito, la Le Pen che scarica il padre, ancora gli Stati Uniti, insomma sono molte le notizie. Guardiamo le prime pagine dei quotidiani come le presentano quest'oggi. Corriere della Sera, l'apertura dedicata al DPF, il taglio dei fondi che fa litigare le città italiane, Firenze e Verona una sforbiciata del 30%. E poi a centro pagina però c'è un'altra notizia di cui parleremo, la rete tra Coop e PD, un altro manager che collabora e la vicenda della Coop Concordia che apre nuovi scenari. Il Messaggero, comuni, tagli del governo con l'applicazione dei costi standard previsti dal DEF, si punta a 2,2 miliardi di risparmi. Tra evasori totali e appalti truccati, il 2014 però un anno record, i dati che vi abbiamo dato anche noi ieri mattina con GR24 della Guardia di Finanza sulla corruzione. E poi ancora lo shock negli Stati Uniti con il poliziotto che manipola le prove ma un video lo incastra, nero ucciso alle spalle, il killer è un agente. La Repubblica, Diaz, la vicenda del G8 sceglie come apertura invece la Repubblica, il PD all'attacco. Attacco via De Gennaro da Finmeccanica, la polemica dopo la sentenza, dicevamo, della Corte di Strasburgo con il PD che vorrebbe a questo punto via De Gennaro. Ma poi a centro pagina di Repubblica anche l'altra notizia che troverete un po' su tutti i giornali, le parole ieri, la bufera su Salvini, le parole sui campi Rom, spianare i campi Rom, dice il leader della Lega. Il Fatto Quotidiano, condono fiscale ci riprovano, nel documento economico per Bruxelles il governo promette di salvare lo spirito originario del decreto di Natale, quello del colpo di spugna per le evasioni e le frodi fiscali fino al 3% dell'imponibile dichiarato. Scopo esplicito, scrive il Fatto Quotidiano, tutelare non il fisco ma i diritti delle grandi imprese e dei contribuenti. Insomma, che rispunti anche questo tema, dice oggi il Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano che torna però ancora sulla vicenda Expo con Cantone che parla e dice: inammissibile l'appalto senza gara a E-Italy, il commissario anticorruzione, altre contestazioni a Giuseppe Sala, responsabile di Milano 2015, e allora altre bufere quando mancano ormai 21 giorni all'apertura dell'esposizione universale a Milano. Il quotidiano Il Giorno, anche qui si parla, il quotidiano nazionale, di Expo, ma si parla di rischio no global, un'intervista al ministro dell'interno Angelino Alfano. Irregolare un appalto su tre, oltre 8.000 evasori totali, l'apertura del Sole 24 Ore, La Stampa, De Gennaro sotto accusa, lasci Finmeccanica, G8, silurato PD a De Gennaro anche per il secolo XIX. E poi invece Giornale Libero che puntano sulle parole di Salvini, il Giornale, le frasi shock dei Rom, rubiamo 1.000 euro al giorno, le vecchine possono morire, Libero, parola di Rom, guadagno 1.000 euro al giorno rubando, e quindi si torna ancora su questi temi. La carrellata come sempre delle prime pagine, ma entriamo anche un po' più nello specifico di quel che scrivono oggi i quotidiani. Allora cominciamo dalla vicenda del G8 che è vicenda politica e bufera politica. Oggi si comincerà nuovamente per l'ennesima volta a discutere ancora della legge sulla tortura alla Camera, poi deve tornare al Senato, quindi oggi si comincia solo un'altra volta, ma fatto sta che invece la vicenda politica c'è e c'è tutta. E qual è la questione? Gianluigi Pellegrino sulla Repubblica. Quale onta peggiore per uno Stato della condanna per aver torturato suoi cittadini? Cos'altro deve accadere per affermare un elementare principio di responsabilità? Quale azienda, quale gruppo sociale lascerebbe ai suoi vertici chi era la guida del corpo che ha scritto una pagina così vergognosa da procurare la più infamante delle censure? E per questo il j'accuse di Matteo Orfini verso De Gennaro. Ecco, De Gennaro ai vertici di Finmeccanica. Che succede? Che fa Palazzo Chigi? Allora, leggiamo anche qui il retroscena di Goffredo De Marchis sempre sulla Repubblica. Dopo il tweet di Orfini, a Palazzo Chigi regna il silenzio. Da parte di Matteo Renzi non c'è né un sostegno né una presa di distanza. Tacciono anche i renziani, che di solito vengono attivati dall'organizzazione comunicativa del Premier. Nessuno nel PD difende Gianni De Gennaro dopo le parole durissime del presidente del partito. Del resto, il numero uno di Finmeccanica è figlio di un'altra stagione politica. E allora il silenzio di Renzi al centro dei commenti. Ma nelle pagine interne della Repubblica, perché non c'è solo De Gennaro, la storia, promossi dal Viminale o riciclati come manager, ecco le carriere miracolose dei poliziotti di Genova. Che succede? Caldarozzi a Finmeccanica con De Gennaro, Ferri alla sicurezza del Milan, Gava a Unicredit. Così salvati i funzionari condannati. Vincenzo Canterini, capo del reparto mobile di Roma, dopo il 2001 ha avuto prestigiosi incarichi nelle ambasciate europee e ora è in pensione. Insomma, fino al 2013 Gratteri ha goduto di un alloggio di servizio al Ministero dell'Interno. Questo ci racconta Repubblica, ecco com'è andata intanto per quei protagonisti, perché non c'è solo De Gennaro. Inchieste. Allora andiamo sulla prima pagina del Corriere, ve lo dicevo prima, torno ancora sulla COP Concordia che ha aperto un altro nuovo scenario. Ebbene, ecco la rete tra COP e PD. Che succede? Che un altro manager collabora e questa volta è spuntata anche una busta con 16.000 euro. La svolta nell'inchiesta sugli appalti truccati a Ischia, ma ormai Ischia non solo. Fulvio Buffi, Fiorenza Sarzanini, Nicola Verrini. Responsabile della CPL Concordia ha deciso di collaborare con i magistrati affrontando i rapporti con la politica e in particolare con il PD. Allora andiamo a leggere qualcosa in più nelle pagine interne. Interrogato 5 ore, ebbene, che è successo? Che è accaduto tutto martedì mattina, subito dopo le vacanze di Pasqua. Verri ha contattato i magistrati, ha chiesto di essere sentito. I sostituti procuratori Woodcock e Celeste Carrano entrano nel carcere di Poggio Reale alle 15 di due giorni fa e escono quando ormai è tarda sera. Che succede? Fa i nomi degli interlocutori che hanno consentito alla cooperativa di seguire una corsia privilegiata nelle gare, approfondisce i legami che Casari ha con numerosi esponenti del PD. Staremo a vedere quando e se usciranno i nomi. Retroscena delle trattative che lui stesso ha seguito per ottenere l'assegnazione degli appalti e i magistrati hanno disposto immediate verifiche. Ma ecco la sorpresa: quando i carabinieri sono entrati nelle case degli indagati, hanno perquisito anche gli appartamenti e da Casari hanno trovato la busta con 16.000 euro in contanti. Sono i soldi che tengo a disposizione per le esigenze della famiglia, ha detto. 16.000 euro a disposizione della famiglia. Sulla busta c'era scritto baffo e lui ha spiegato: si riferisce a me che ho i baffi, e quindi 16.000 euro in una busta con scritto baffi per le piccole spese di famiglia. Polemica per polemica, così vi faccio subito arrabbiare ancora un po', c'è, dicevamo, anche quella scatenata da Matteo Salvini sui campi Rom. Dovremmo passarci sopra con le ruspe, ha detto. Si è aperta ovviamente la bufera politica, scrive Michele Serra oggi sulla Repubblica. È sperabile, forse probabile, che Matteo Salvini, quando dice che bisognerebbe radere al suolo i campi Roma, abbia in mente qualcosa di meno insolente e meno violento. Per esempio, che con un congruo preavviso quei campi andrebbero sgomberati. Scrive Michele Serra e prosegue. Perché allora Salvini dice proprio raderli al suolo? Lo dice perché è al tempo stesso artefice e vittima di uno dei più funesti equivoci della scena politica italiana degli ultimi anni, l'idea che il parlare come si mangia sia un decisivo passo avanti, mentre è un passo penoso, umiliante, indietro. E conclude Michele Serra: quando ci si abitua a sdoganare l'insolenza, l'aggressività e l'ignoranza come ragioni identitarie, niente può più sbalordire e niente può più indignare. Fino a 20 anni fa, a dire che bisogna radere al suolo i campi Roma era qualche personaggio da bar. Nei bar si diceva e si dice anche molto peggio, ma trasformare la polis in un bar vuol dire non avere alcun rispetto né della polis né del bar. Opinione di Michele Serra, la polemica c'è tutta e l'abbiamo visto anche poco fa sul Giornale e su Libero. Per noi c'è una piccola pausa, c'è molto altro però sui quotidiani, torniamo tra poco. 24 mattino. Niente tasse, niente tagli, ha detto il premier Renzi l'altro giorno. Ebbene, oggi i conti si fanno. Tra mezz'ora, alle 8, sono convocati a Palazzo Chigi i sindaci, comincia la resa dei conti del DEF. Ma questa volta i sindaci non sono tutti uniti, perché i tagli non sono uguali per tutti. Il taglio dei fondi fa litigare le città italiane, il titolo oggi del Corriere della Sera: Firenze e Verona, una sforbiciata del 30%. Allora andiamo nelle pagine interne e vediamo un po' quali sono queste differenze. Il primato dei tagli va a Firenze e a Verona. Lite tra i sindaci su chi risparmia di più. Un euro ogni tre non deve essere semplice far quadrare i conti se i tagli si portano via il 30% del bilancio, ma è questo il guaio che devono affrontare 10 città. Firenze, Monza, Verona, Padova, Rimini e poi giù fino a Taranto in un grande giro d'Italia della Spending Review. A tutto c'è una spiegazione però anche stavolta. Così scrive il Corriere della Sera e a parlare, a rispondere per ora il sottosegretario agli affari regionali Gianclaudio Bressa. Non è un paradosso bastonare di più chi tassa meno i propri cittadini? No, perché la percentuale dei tagli, dice, non è stata decisa in base alla virtuosità delle singole amministrazioni, ma per garantire equità tra le diverse aree del paese. Quindi va bene se Firenze decide di far pagare meno la RC auto, ma non è che per questo posso tagliare di più a chi vive a Brindisi. E poi aggiunge: prima non andavano bene i tagli lineari, adesso non va bene adeguare gli interventi alle diverse realtà. E allora eccoli lì i sindaci che sfileranno, ma forse questa volta ognuno per sé. Ci torneremo. E allora sul Messaggero a parlare è questa volta non un sindaco a cui molto si taglierà, ma il sindaco di Bari. I sacrifici noi sindaci li possiamo fare, dice. Io ho portato le municipalizzate inutili. Il primo cittadino di Bari si muove in controtendenza, il governo però dice ci aiuti creando lavoro e riducendo il disagio. Allora, non è che aumenterà le tasse? Chiedono, eccola la domanda clou, no, le tasse diminuiscono, almeno a Bari. I soldi dove li trovate? Dai tagli alle spese e da una maggiore efficienza delle società municipalizzate. Basta tutto questo per tenere in piedi il bilancio? Bari, da prima del mio arrivo, tiene il bilancio sotto controllo giorno per giorno. Questo ci ha permesso di tagliare in tempi brevi molte spese, gli affitti, i rimborsi per i consiglieri, anche perché le circoscrizioni sono scese da 9 a 5. E poi ho fatto meno assunzioni di quelle consentite, risparmiando l'anno scorso 80.000 euro. E ci sarà anche il sindaco di Bari a spiegare ai colleghi. Ma intanto che accade questo, rieccole le province. Pagina 5 sempre del Messaggero, mentre tagliamo i comuni, che succede? Nella Sicilia nel caos, i franchi tiratori resuscitano le province. Ecco cos'è successo, colpo di scena ieri sera all'Assemblea regionale siciliana, dove le province abolite per legge come nel resto d'Italia sono state resuscitate a voto segreto, grazie ai franchi tiratori. Risultato, sessione di bilancio sospesa, regione nel caos, crisi di governo alle porte. È stato approvato l'emendamento del Movimento 5 Stelle, soppressivo dell'articolo 1 del disegno di legge che istituisce liberi consorzi, affondando così la legge che abolisce le province. Eccole in Sicilia, non le abbiamo ancora tagliate nei fatti, in Sicilia già risorgono. Ma siamo ottimisti, restiamo ancora ottimisti. Prima pagina dell'Avvenire di quest'oggi con un'intervista al governatore di Banca Visco, che dice: la ripresa c'è, l'Italia si rinnovi, ma restiamo ottimisti. Pagina 4 dell'Avvenire, parla il governatore. È ancora ottimista come un mese fa. Siamo ottimisti, dobbiamo esserlo, dice Visco in un botta e risposta a Palazzo Koch. Governatore, chiedono Eugenio Fatigante e Marco Girardo. Lei ha parlato di recente di un ottimismo nuovo, di un barlume di ripresa, però sono dovuti più a fattori esterni. Sì, ma anche le politiche adottate, dice Visco, il tasso di cambio e poi la linea d'azione della BCE. E intanto il governo Renzi sta varando il DPEF, il quadro è condivisibile per un giudizio compiuto, dice Visco, bisognerà attendere la pubblicazione. Posso dire che secondo le previsioni nostre e dei principali analisti il PIL potrebbe espandersi a un ritmo anche superiore al 0,5% nella media di quest'anno e accelerare significativamente nel 2016. E qui è proprio la scommessa del tesoretto, forse questa volta, forse previsioni più basse, vedremo. Sarà una ripresa accompagnata da nuovi posti di lavoro? Dalla domanda del secolo, così a Visco risponde che la ripresa si traduca rapidamente e integralmente in un aumento dei posti di lavoro non è così ovvio. Nei nostri settori tradizionali di specializzazione, anche per la concorrenza delle economie emergenti, si è registrata una significativa caduta della produzione, dei prezzi e dei margini di profitto. Il ritorno duraturo a una crescita ricca di lavoro richiederà nuove tecnologie, un cambiamento profondo, un'azione continua di riforme. È ancora riforme. Domanda: non è che negli anni abbiamo messo su troppa enfasi sulle riforme del mercato del lavoro, mentre le famose riforme sono altre? È vero, dice Visco, il funzionamento insoddisfacente del mercato del lavoro è un ostacolo all'attività dell'impresa, ma non è il solo. Così Visco oggi sulle pagine di Avvenire. E intanto cosa ci aspetta? Ci aspetta ancora l'Expo, solo una carrellata per dirvi che sulla prima pagina della Repubblica c'è la corsa di Milano nel cantiere dei ritardi, 21 giorni per evitare il flop, scrive Carlo Verdelli. Flop ma sicurezza anche. Allora ecco l'altra intervista che vi segnalavo sulle prime pagine oggi dei quotidiani italiani, in questo caso di Quotidiano Nazionale. C'è anche il rischio black bloc, parla il ministro dell'interno Alfano, che tra l'altro oggi sarà a Milano, e dice: prevenire il rischio no global, ci sono segnali, serve massima allerta, pronti a protezione e controlli. A giorni, dice Alfano, aprirà la sala operativa internazionale, 600 militari per presidiare il sito espositivo, teniamo la guardia alta. Si sente sotto pressione? Beh, la sfida è impegnativa, dice Alfano. I movimenti no global hanno già inviato segnali in questo senso. Un evento che è una vetrina internazionale, è possibile che qualcuno voglia approfittarne. Così scrive Alfano. Gazzetta dello Sport, 7:39 minuti. Eccoci qui, sempre la Juventus in prima pagina col triplete, si può, ma è la nuova, gli occhi di nuovo puntati sull'Inter e su Massimo Moratti. Ieri l'idea dell'azionariato popolare e del ritorno di Moratti all'Inter, ebbene la svolta possibile, il piano Moratti, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, con 30.000 azionisti, soci VIP da 1.000 euro, ingresso di fondi stranieri per far partire la nuova rivoluzione nerazzurra e Pellegrini in regia. 1000 euro non lo so, forse due orini. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Anna. Vedo che stai conducendo questa sorta di pressing nei miei confronti per sapere se... Io sono preoccupata per i tuoi due orini, sono molto preoccupata. Io voglio prima aspettare il rientro di altri famosi nella gestione dei loro due urini, nel senso che se li tengono in tasca da anni, se loro fossero disposti a mettere i due urini magari chissà. Vai avanti. Vediamo tu adesso, insomma. Adesso cerco qualcosa, no è una valutazione. Scherziamo, sugli ovviamente. Sugli investimenti noi qui al Sole 24 Ore siamo un pochino prudenti in qualche modo, no? Anche perché ci sono delle alternative. Oggi, per dire, su Finanza e Mercati spieghiamo di questo bond, di questa obbligazione che viene preparata da FCA, una volta si diceva Fiat ma era ai miei tempi, FCA, per appunto 3 miliardi di dollari, e quindi è un'alternativa valida, diciamo, a questa offerta che ancora invece non ho visto maturare dal punto di vista proprio finanziario. Ma vabbè, intanto puoi leggere, ecco, cosa, se vuoi mettere proprio i tuoi due urini o quelli che Milan ha lasciato lì, puoi mettere. No, io ho quelli di Milan in gestione, li ho qui nel cassetto. Mi immagino con quali vincoli di gestione. Senti, ti vorrei parlare del palo numero 40. Non so se ti sorprende un po' questa mia dichiarazione. Aiuto. Perché il palo numero 40 è quello di cui raccontiamo oggi nelle pagine di Imprese e Territori, che blocca l'ammodernamento della rete elettrica tra la Calabria e la Sicilia. C'è un palo da cambiare, però siccome ci sono delle opposizioni locali di una piccola associazione che si è opposta, insomma, questo palo numero 40, alla fine di tutto, se leggi l'articolo di oggi su Imprese e Territori, ecco, scopri che ci costa come collettività 600 milioni all'anno. E lì potremmo tagliare benissimo. Come palo è abbastanza costosetto, diciamo così. La tenuta di questo palo lì è abbastanza margini costosa. Di spending review ce ne sono. Beh sì, anche perché è un palo, insomma, uno solo, e invece è più complicato. Oggi parliamo anche di spending review, tra l'altro ne parliamo nelle nostre prime pagine, lì più complicato la revisione di trattamenti previdenziali o di assistenza, come ad esempio l'indennità di accompagnamento, era un progetto del dossier ancora di Cottarelli, il precedente commissario. Se ne riparla, vedremo, insomma, è un po' come l'azionariato popolare di cui sopra, non abbiamo ancora capito bene che forma prende. Le tasse non aumenteranno, l'abbiamo letto su Twitter, no, lo leggiamo anche sul Sole 24 Ore di oggi. Invece ti volevo dire che potresti cambiare casa permutando la tua con quella di un altro. Ma posso scegliere? Posso scegliere quale? Naturalmente poi bisognerà mettere un conguaglio se vuoi sostituirla con una molto più costosa della tua, ma ti spieghiamo come, non, attenzione, nelle pagine di norme e tributi, bensì in quelle dedicate alla casa, che come d'abitudine appunto il giovedì, oggi è giovedì, mi confermi che oggi è giovedì? Confermiamo, sempre, accendiamo. Sono molto più tranquillo adesso. Il giovedì trovi appunto le pagine dedicate alla casa sul Sole 24 Ore, e anche oggi le trovi. Tra le altre cose si parla appunto di permuta immobiliare. Ieri ti ho parlato degli imbullonati. Sì, si sono appassionatissime. Gli imbullonati sono effettivamente una bella vicenda fiscale, come ti dicevo, un po' come se il fisco ti chiedesse di pagare l'IMU però anche sui mobili, vedi che ho studiato. Ma sì, infatti sei preparatissima, mica come altri che a volte trovo lì la mattina. L'imbullonati ne parliamo anche oggi, è un'inchiesta che stiamo conducendo, e parliamo qui in questo caso delle questioni che riguardano le imprese del Piemonte. Tutto questo non, attenzione, sulle pagine di norme e tributi, ma invece sulle pagine di Impresa e Territori del Sole 24 Ore. Poi naturalmente molte altre cose, ti voglio però segnalare ancora due ultime cose. La prima è che se poi vieni con me in edicola, andiamo a fare una passeggiata, possiamo anche prendere Norme e Tributi Mese, che è invece la nostra rivista di analisi, di dibattito sulle questioni appunto fiscali, ma anche di societarie in generale, e possiamo andare insieme a comprarlo con il Sole 24 Ore. E poi c'è un problema con i piccoli trattori. Se noi li usiamo nella nostra agricoltura sono comodi specialmente per muoversi tra i filari, ecco, però adesso sta arrivando l'applicazione dell'Euro 4 e questo ohimè renderebbe la produzione di questi trattori molto più costosa ed è un problema che purtroppo dobbiamo cercare di risolvere con Bruxelles. Non è grave come i problemi che ha in questo momento la Grecia, però nel loro anche piccolo questi, anche i trattori sono un problema. L'appuntamento anche per i trattori andare nel loro piccolo. 24 mattino. E riprendiamo dalle pagine dei giornali di quest'oggi. Come sta Forza Italia? Molto se ne parla ancora sulle prime pagine dei giornali e non solo per le regionali in vista. Allora andiamo, pagina 13 della Repubblica. Forza Italia, l'affondo di Fitto, salta la tregua per le regionali, a un passo dalla scissione. C'è l'intesa per una lista comune in Puglia che dura meno di 24 ore. Il partito del Cavaliere rischia il tracollo del Mezzogiorno e si parla di rissa sfiorata tra senatori azzurri campani, Martino contro la Rossi si copre di ridicolo. Ne parla anche la Stampa, sta molto facendo parlare il partito dell'ex cavaliere in questi giorni. La Stampa, anche qui siamo pagina 7, il partito più maschilista che adesso è diventato donna. Maria Rosaria Rossi, 43 anni, amministratore delegato del partito, la odiano tutti e lo ammettono tutti, purché sia garantito l'anonimato. L'impressione, scrive la Stampa, è che il partito non crolli per l'impegno di Mara Carfagna, Maria Stella Germini, Stefania Prestigiacomo, Anna Grazia Calabria, Anna Maria Bernini. L'elenco si possono aggiungere vivaci europarlamentari come Lara Comi e Licia Ronzulli, una serie di ragazze che con comoda superficialità sono state considerate le pom-pom girl di Silvio Berlusconi, l'ornamento del re, o peggio guzzantianamente le vedi invece ora tirare la carretta, trascurare la faida o almeno non combatterla apertamente. Ecco, da Maria Rosaria Rossi in giù, in che mani è finito il partito più maschilista del mondo, così scrive la Stampa. Il Corriere della Sera pubblica invece quest'oggi un gustoso retroscena, il libro di Bisignani e Madron, un'anticipazione. Berlusconi ruppe il patto con Renzi. Eccoli i retroscena che arrivano sempre dopo i fatti. La notte prima dell'elezione del Presidente della Repubblica, così Silvio fu stregato da Casini e poi stracciò il patto con Renzi. Nel libro di Bisignani e Madron, le trattative segrete e i blitz falliti sul Quirinale. Ve ne leggo solo qualche stralcio. Renzi non ha stracciato nulla. Potremmo dire il giorno e l'ora in cui anzi è successo esattamente il contrario. Mancavano 10 giorni alla battaglia per il Quirinale, le 20:20 del 19 gennaio 2015, quando Renzi apprese la notizia di un vertice a poche ore prima in una saletta riservata della prefettura di Milano e si sentì tradito. Ebbene, il pericolo da scongiurare era che si compattasse il centrodestra, come se non bastasse in Forza Italia iniziava a far breccia la linea anti-Nazareno. E allora la lotta dei lunghi coltelli è stata quella del 27 gennaio 2015. Che cosa successe? Fu una notte infernale. Silvio era andato a dormire con l'incubo di Lorenzo Guerini, che annunciava si parte con Mattarella, si arriva a Mattarella. Come si è svegliato? Frastornato e mortificato, perché nelle ore decisive della battaglia lui doveva rientrare a Milano secondo quanto gli imponevano le disposizioni della magistratura. Solo anticipazioni avremo, c'è da giurarci, altro da leggere. Altro da leggere che abbiamo già subito con invece un'intervista, sulla pagina, torniamo sulla pagina di Repubblica e andiamo a pagina 19 perché c'è un altro fatto, l'antimafia, con il CSM che boccia Di Matteo. Il PM di Palermo bocciato nella ricorsa per la Procura Nazionale Antimafia, dice oggi a Repubblica: sono amareggiato, deluso e preoccupato, 20 anni di lotta ai clan per il CSM non sono nulla, io sconfitto dalle correnti. Gli chiedono perché l'hanno bocciata, nessuno ha rilevato carenze di professionalità o altri motivi, se lo avessero fatto forse avrei potuto accettare la decisione, ma così non è. E gli chiedono ancora: perché vuole lasciare Palermo durante un processo così delicato? Non è vero che voglio scappare. La nomina alla Direzione Nazionale Antimafia mi avrebbe consentito di continuare a occuparmi di mafia, di stragi, di mandanti esterni e anche di essere applicato al processo in corso. E allora eccola la domanda: si sente isolato? La decisione del CSM la isolerà di più? Ci sono tanti colleghi appartenenti al fior fiore delle forze dell'ordine, tanti cittadini che non perdono occasione di dimostrarmi stima e fiducia. Ciao. Tutto ciò funge da contraltare a vicende che, come quella del voto, che oggettivamente, voto del CSM si riferisce, che oggettivamente contribuiscono ad alimentare un senso per me inspiegabile di isolamento istituzionale. Ed è un termine che, ahimè, abbiamo già sentito altre volte. Te non voglio fuggire, avrei voluto continuare a occuparmi di mafia e di strage. L'intervista Nino Di Matteo quest'oggi su La Repubblica. Voltiamo pagina, andiamo all'estero, non abbiamo tempo, ve lo segnalo solo sul Corriere della Sera ancora la vicenda dell'altro afroamericano vittima della polizia, parla lo scrittore Lansald. Tra bianchi c'è ancora un razzismo congenito, l'America profonda, ma c'è anche un'altra vicenda di cui si parla molto, ed è il parricidio politico della Le Pen in Francia per vincere le elezioni. Allora, qualche commento. Marine Le Pen caccia il padre, così. Maria Latella sul Messaggero. Uccidere il padre in politica, finora solo una donna ci è riuscita, Angela Merkel, capace di farlo nella sostanza senza mai intaccare la forma, manifestando anzi grande e forse sincero rispetto verso Kohl. Un'altra ora ci sta provando ed è Marine Le Pen, con stile meno democristiano, con una ruvidezza diversa. Le Pen figlia ha annunciato di non voler candidare Le Pen padre alle prossime regionali. E allora scrive la Latella: sarebbe bello che nella politica degli spin doctor almeno questa rottura fosse vera. Probabilmente invece è l'ultimo capitolo di un'efficace strategia che vede d'accordo anche l'anziano padre, un'uscita grandiosa, davvero un po' shakespeariana, per consentire alla figlia di dimostrare che non solo la Merkel, anche lei Marine, sta uccidendo il suo padre politico per meritare il voto di quei moderati pericolosamente ritentati da Sarkozy. Il dubbio che la Tella metta, insomma, è che sia solo un gioco politico. Massimo Gramellini sulla Stampa: vista da qui la faida di Monsieur e Madame Le Pen appare un fenomeno incomprensibile. Il parricidio sta alla base di tante civiltà europee, non della nostra però. Gli italiani, scriveva il poeta Umberto Saba, non sono parricidi ma fraticidi. Per informazioni rivolgersi a Romolo Remo. Lungi dal pensare di ucciderlo, essi desiderano darsi al padre per avere da lui il permesso di uccidere gli altri fratelli. Renzi rappresenta un'eccezione, ma solo perché i suoi babbi politici si erano già uccisi tutti fra loro e i pochi sopravvissuti continuano a farlo. Graffiante questo Gramellini. Abbiamo pochissimo, sufficiente per farvi un'ultima segnalazione. Torna al cinema, Cinecittà, ce l'abbiamo fatta. Hollywood punta su Roma, il ritorno dei divi a Cinecittà, così le cronache del Corriere della Sera. Siamo a pagina 27. Che succede? Hollywood punta su Roma, da Zoolander 2 a Ben Hur, i Chuck delle grandi produzioni, la concorrenza straniera battuta grazie, leggiamo, agli incentivi fiscali. Che è successo? Nuova norma: i progetti stranieri hanno un beneficio del 25% di quanto spendono in Italia. Si possono trasferire alle produzioni fino a 20 milioni di benefici fiscali a progetti che investono in Italia fino a 90 milioni di euro. Senza tax credit, assicurano, probabilmente questi film sarebbero finiti in Gran Bretagna o in Francia. Certo, un'altra carta decisiva è stato il successo di James Bond girato a Roma, ma tant'è, a far tornare forse il cinema a Roma sono gli incentivi fiscali. Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Che devozino via fuoco! Milan, il cagnasso randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli. E allora l'abbiamo lasciato nelle mani di sua moglie, in questi giorni ce lo restituisce lunedì, però ce l'ha promesso. 8:19 minuti, buona giornata invece da Anna Migliorati. Di cosa parliamo oggi? La sensazione è che il DEF di Renzi abbia la stessa validità scientifica dell'oroscopo di Paolo Fox. Solo che Paolo Fox ha la decenza di fermarsi alle previsioni di un anno. Renzi, da sborone qual è, si spinge fino a 3 anni. Però io, grazie al DEF, posso prevedere i prossimi 3 anni. E infatti cosa vuol dire DEF? Dovremmo essere falliti. E allora tutto tace per ora a Palazzo Chigi, ma sindaci convocati, si cominciano le discussioni sul DEF, domani convocato un altro consiglio dei ministri, ne parliamo anche noi in questi minuti. Saluto Dino Pesole, collega del Sole 24 Ore, buongiorno, ben svegliato. Grazie, buongiorno Anna, buongiorno a te. E Roberto Scanagatti, sindaco di Monza del PD, nonché presidente dell'ANCI Lombardia. Buongiorno. Buongiorno a lei. I suoi colleghi sono ormai arrivati a Roma, direi, ben più che in viaggio. Beh, penso proprio di sì, forse addirittura è già iniziata la riunione, visto che il presidente ci ha convocati per le 8 di buon mattino, quindi dovrebbe essere già iniziato tutto. Fattore sorpresa, insomma, si punta anche su quello, ma dicevo, tutto tace per ora, non vediamo neanche tweet, almeno per il momento. Dino, ti risulta qualche tweet? No, per il momento tace. No, risulta che la riunione è appena iniziata e quindi insomma immagino che staranno cominciando a entrare nel merito delle questioni, poi ci sarà un caffè, magari un cappuccino, qualche cornetto, vediamo come evolve. E vedi che ho fatto bene a chiamarti perché sei informatissimo. Stanno cominciando a discutere, proviamoci anche noi, perché per una volta pare che non siamo tutti uguali. Questo è un po', possiamo sintetizzare, Dino, la teoria di questi nuovi tagli, cioè città e città. Per una volta non sono tagli lineari, sono diversi tra sindaco e sindaco, e quindi potremmo avere, lo chiediamo subito a Scanagatti, è riuscito Renzi nell'impresa di dividere i sindaci? Ma adesso vediamo un po' che cosa succederà al termine di questa riunione. È riuscito Renzi a dividere i sindaci? Non lo so, di sicuro i sindaci non ne possono più di questa situazione, e quello che sta accadendo non è esattamente come la stanno raccontando. Non è vero che qui siamo passati da un sistema iniquo, che era quello dei tagli lineari, a un sistema che sarebbe più eco, quello dei cosiddetti tagli standard, perché poi si tratta di capire in che modo vengono costruiti questi costi standard. Però per ora il risultato è che più che litigare col governo, litigano Merola e Fassino. Questo ci sta, perché siamo arrivati al limite, quando ormai non ne hai più è ovvio che la guerra tra i poveri in qualche modo rischia di scatenarsi. È anche vero però che le valutazioni che vengono fatte in questo momento sono soprattutto legate a quello che accadrà per le città metropolitane e per le province di area vasta, questi enti di secondo livello che sono appena stati istituiti. I comuni in quanto tali sono ancora sottoposti, diciamo, al vecchio criterio per quanto riguarda la riduzione. Devo dire che è un criterio che comunque non ci soddisfa. Uno dei nodi è lì, è per quello che alcune città sarebbero tagliate di più. Vediamo se riusciamo a trovare però una linea migliore per Scanagatti, perché non lo sentiamo benissimo. Dino, sta qui il nodo. Ci sono arrivate le città metropolitane, quindi come dicevamo prima non siamo più tutti uguali, o c'è dell'altro e c'è un cambio di strategia? No, allora al momento diciamo che c'è semplicemente una dichiarazione di intenti, perché il DEF questo è, cioè un documento programmatico in cui il governo dice quello che vorrà fare con la prossima legge di stabilità, quindi non c'è nessuna misura in arrivo immediata. La cornice del quadro? Sì, è la cornice, però è una cornice importante, perché non a caso il DEF va inviato a Bruxelles e poi sulla base di quello che c'è scritto lì verranno predisposti i documenti di bilancio in ottobre. Allora, cos'è accaduto? È accaduto che negli anni negli ultimi anni i comuni, e non solo i comuni, anche le regioni, gli enti locali in genere, le autonomie territoriali sono state chiamate a uno sforzo di risanamento piuttosto importante. Quest'anno, lo ricordo, solo con la legge di stabilità di quest'anno ci sono 5,2 miliardi di tagli tra regioni e enti locali, non è poco. Allora, e sono tagli sostanzialmente lineari. Quello che adesso si vuol fare è cominciare a distinguere, e il problema è capire intanto di quale entità stiamo parlando, perché questo ancora non è chiaro, cioè qual è la parte, la fetta, chiamiamola così, di risparmi che dovranno essere realizzati dalle autonomie territoriali, e dopodiché stabilire come si taglia, perché qui bisogna stare molto attenti, perché in gioco, quando si parla di tagli, uno pensa vabbè, sono risparmi. In questo caso sono risparmi che rischiano però di tradursi in aggravi di imposta o di taglio dei servizi, perché se si taglia più del dovuto ai comuni, i comuni da qualche parte devono recuperare i soldi. 349-238-6666, ancora una volta il numero per i vostri sms, 800-24-0024, sono già pronti anche i nostri centralini. Abbiamo ritrovato anche Scanagatti, vediamo se la linea è migliore. In qualche modo Dino Pesole le dava ragione, forse si è tagliato troppo? Sì, si è sicuramente tagliato troppo, perché io purtroppo non ho potuto sentire l'intervento in tutto e per tutto, però i numeri sono quelli, insomma nel corso degli ultimi 7 anni c'è stato un taglio di 18 miliardi di euro, 9 tra tagli e 9 tra patto di stabilità. Si consideri che il peso degli enti locali, dei comuni, è di circa il 7,2% sul totale della spesa pubblica. Abbiamo ridotto del 14,5%, quindi vuol dire che la nostra parte sicuramente l'abbiamo fatta fino in fondo. Sono altri che non hanno fatto la loro parte, a cominciare dai ministeri e, se devo dire, in parte anche un po' le regioni. Però con questo sistema di tagli diversi, perché abbiamo visto Firenze meno 30%, Roma meno 24%, a fronte di un Milano meno 6 o di un Torino meno 6, non è che il governo è riuscito in qualche modo a dividere quello che fino ad ora era stato in qualche modo un partito compatto, quello dei sindaci? Può essere, perché appunto la situazione è pesante per tutti. Va anche detto che il criterio che è stato adottato, che appunto per la prima volta per quanto riguarda le città metropolitane e province, non è quello dei tagli lineari ma dei cosiddetti costi standard, va rivisto completamente, perché sono stati prese in considerazione situazioni che probabilmente sono di forte disparità. Consideriamo anche un altro aspetto: quando si parla di costi standard bisogna anche capire come vengono erogati i servizi, qual è lo standard qualitativo dei servizi. A volte si va a colpire laddove effettivamente il livello qualitativo è anche elevato, ma questo non è un fatto di per sé negativo, credo che questo sia un fatto, come dire, che va a vantaggio della qualità dei servizi che vengono erogati ai cittadini. Insieme a Firenze ci siete anche voi, c'è Monza, sì. Verona, Padova, Rimini, tra quelli più tagliati. Non è che vi tagliano di più perché siete più ricchi? Questo potrebbe anche darsi, che questo sia uno degli elementi. Va anche detto che però nel caso per esempio della provincia di Monza e Brianza, siamo all'assurdo di una provincia che di per sé è già molto virtuosa. Considerate che noi abbiamo circa 850.000 abitanti e riusciamo a gestire la provincia con 240-250 persone, quindi siamo abbondantemente al di sotto di qualunque standard ottimale. Abbiamo un bilancio che è inferiore ai 70 milioni di euro, si prevede un taglio di 19 milioni, 10 milioni li abbiamo già tagliati e dovremo tagliarli per la riduzione del personale. Insomma, a questo punto si fa prima dire che si chiude tutto e non so, e qualcun altro poi si occuperà delle strade, delle scuole, dell'assistenza agli alunni disabili, insomma. Perché si è sempre detto i comuni vanno sul concreto. Nel frattempo le agenzie hanno confermato, noi con Dino Pesole lo sapevamo già, comunque confermiamo che proprio in questi minuti è in corso tra governo e ANCI. Chi c'è al tavolo? C'è Matteo Renzi e c'è il ministro per le infrastrutture Graziano Del Rio, che però fino all'altro giorno forse si è occupato un po' di più di queste questioni, quindi Renzi l'ha voluto con sé. La delegazione dell'Associazione dei Comuni comuni è guidata invece da Piero Fassino, e anche questo lo sapevamo. Scanagatti, lei tra l'altro è un sindaco del PD, Matteo Renzi si è sempre piccato di essere arrivato a Palazzo Chigi come sindaco, non vi sentite un po' traditi? Traditi no, sicuramente inascoltati, perché quello che non può succedere è che quando uno svolge una funzione la pensa in un modo e poi quando la va a svolgere un'altra non ascolti più. È il caso di Renzi? In questo caso credo proprio di sì, ma vede, c'è una contraddizione di fondo. Renzi è, come dire, il sindaco d'Italia, e Renzi ha voluto dare anche molta importanza al ruolo dei sindaci, qualcuno dice troppa, no? Tagliando magari anche un po', insomma, i corpi intermedi. E però questa non può essere soltanto una, come dire, un'investitura a parole, ci vogliono anche dei fatti molto concreti. Ha cambiato casacca, è diventato uomo di Palazzo Chigi? Questo non lo so, ma vedo che la camicia bianca è la stessa che aveva da sindaco, che ha adesso da presidente del Consiglio. Però, se posso dirlo in una battuta, ho la sensazione che lui ci stia a sentire ma non ci stia ad ascoltare. Che non è la stessa cosa. 8:30 minuti, meditiamo su questo, una piccola pausa, ma poi torniamo ancora. 24 mattino. 24 mattino. Dino Pesole, sentito poco fa il sindaco di Monza, secondo te Renzi ha davvero smesso i panni del sindaco? Ma decisamente sì, fa un altro mestiere e dunque è giusto anche che sia così. Ma sai, qui il problema di fondo sempre, quando si parla di tagli, tende naturalmente a dire beh, gli altri non tagliano, hanno tagliato solo su di noi, le regioni, lo Stato centrale. Allora, qui l'origine di questo dissesto, secondo me, è anche nel aver approvato nel 2001 una riforma costituzionale sul decentramento che era pessima. Dopodiché c'è stata una lievitazione dei costi e, secondo me, se uno guarda il bilancio dello Stato, 820 miliardi... ripetiamolo davvero, perché è una cifra che forse deve restare in mente. 820 miliardi. 820 miliardi, e questo è il totale, diciamo, delle spese, e all'interno di questa valanga di soldi alla fine si va a discutere di 1,5-2 miliardi a carico dei comuni, che secondo me sono quell'entità istituzionale e avendo più delle altre un contatto quotidiano con i cittadini, andrebbero al contrario, soprattutto i comuni virtuosi, tutelate, quindi gli stanziamenti andrebbero incrementati, non ridotti. Ma non erano le parole che Renzi diceva da Firenze? O no? Esattamente, al pari, se vogliamo, di un discorso che va fatto sull'intera spesa pubblica. Perché sempre si dice tagliamo la spesa, e va benissimo perché ci sono moltissimi sprechi. Ma secondo me la spesa non può essere tagliata in modo, come è stato fatto purtroppo in tutti questi ultimi anni, in modo lineare, cioè tutte le spese sono cattive e dunque le tagliamo del 10%. Assolutamente no, perché ci sono delle spese pubbliche che non a caso negli altri paesi che guardano un po' più lontano rispetto all'Italia vengono incrementate, sono le spese ad esempio per l'istruzione, la ricerca, l'innovazione. La sanità, ma sì, quello forse bisognerebbe parlare un po' di più. Chissà esatto. Se è d'accordo con Dino Pesore, Riccardo Sumski, sindaco Santa Lucia di Piave. Buongiorno. Che prepara le bandiere a lutto per il 25 aprile. Cosa c'entra il 25 aprile? Il 25 aprile è l'occasione, noi sentiamo di più in Veneto perché è la festa di San Marco, ma è l'occasione che mi è venuta dopo che, essendo da anni che mi batto contro, parole sante quelle che ho sentito, che mi batto contro questa assurdità di tagliare in maniera uguale a tutti le risorse senza guardare quello che fanno, senza guardare se uno è virtuoso, ha amministrato bene, cosa aveva in mano prima e cosa ha fatto nel tempo, tutti uguali, per cui io sono arrivato al paradosso di essere amministratore di un comune che ha zero trasferimenti, eppure i miei cittadini pagano le tasse. Per far funzionare il comune ho zero trasferimenti, dall'anno scorso hanno cominciato a erodere una mia quota dell'IMU locale, che i cittadini credono erroneamente di pagare il comune mentre va a Roma, che poi la ridistribuisce come gli pare e piace, cambiando le regole ogni anno. Quest'anno saranno 200.000 meno forse, ma mi dicono anche di più perché non si capisce. E quindi lei ha deciso che il 25 aprile è giornata di lutto, è vero che si è anche incatenato? Sì, perché noi comuni della Marca Trevigiana, tutti senza colore, senza distanza, abbiamo fatto un ricorso alla Corte Costituzionale contro la finanziaria 2015, perché insomma la Costituzione la vogliamo rispettare sempre, e da qui vengo anche perché non celebro le feste nazionali, perché non vado a fare l'ipocrita a richiamare valori che sono calpestati ogni giorno. E quindi abbiamo fatto un ricorso tutti quanti uguali, quindi ci hanno invitato, io mi sono incatenato perché alla fine non ci dai i soldi, ci metti regole assurde dove non possiamo, dobbiamo decidere come comprare le penne, e lo decide un signore a Roma che non ha mai fatto questo, parlo di qualche burocrate, caricano di lavoro con adempimenti in nome di innovazione i nostri dipendenti, io ne avevo tanti anni fa 10 di più, adesso ne ho 10 di meno, quelli devono fare il triplo del lavoro, ma non devono fare quello che i cittadini pensano devono fare, cioè i servizi, non ci siamo, cioè questo è andare allo sfascio. Allora, 800 miliardi, tra l'altro i nostri ascoltatori 349-238-6666 ci scrivono 800 miliardi, la cifra che faceva prima di Zopesole, quanti sono quelli irriducibili realmente? È evidente che non possiamo ridurre 800 miliardi, però facciamo anche le proporzioni di cosa discutiamo e di quant'è il bilancio dello Stato, non per fare demagogia, ma perché forse le cifre è meglio conoscerle per poter poi giudicare. Zumsky, si sente che effetto le fa vedere i sindaci divisi? Il partito dei sindaci italiani è ancora unito o è diviso? Guardi, ci sono una categoria di sindaci, perché in questi tempi mi sono raccordato con colleghi dell'Emilia e della Toscana, coloro che amministrano città medio-piccole, che hanno un contatto diretto e che frequentano i problemi, o sono i problemi che frequentano loro in maniera costante, che ragionano tutti alla stessa maniera. C'è il partito delle grandi città, e mi dispiace dirlo Fassino, si è svegliato ieri altro, perché noi sono 2-3 anni che diciamo che questa storia andrà a finire male. I quali però, se devono essere ricevuti da Renzi, vengono ricevuti, tanto era uno di loro, non dico come amministrato Firenze perché lo ha detto la Corte dei Conti, quindi credo che sia sufficiente questo. Non siamo divisi solamente su questo, perché poi le dico, noi in provincia di Treviso siamo 95 sindaci di varia estrazione, PD, non PD, Liberi, Civiche, Lega, non so cosa, tutti la pensiamo alla stessa maniera. Il problema è dopo che invece di mettere davanti il problema dei cittadini e secondariamente dei comuni che sono dei cittadini, se arriva all'ordine del partito qualcuno si smarca, e là l'errore, ma è sempre stato così. Io ero 20 anni fa sindaco al movimento dei sindaci con Cacciari, con tanta altra gente, è successo così, viene demolito perché ognuno poi guarda il partito, invece bisognerebbe guardare la gente e i problemi, poi i problemi non hanno un colore, vanno affrontati. Scanagatti, c'è anche chi se la prende con la sua Monza, sprechi, inefficienza e burocrazia, ma al di là di questo c'è l'ordine di partito, c'è ancora il partito dei sindaci, siete divisi? Ma guardi, i sindaci innanzitutto rispondono ai propri cittadini proprio per le ragioni che venivano richiamate prima, perché poi il confronto è un confronto quotidiano, è un confronto diretto, quindi da questo punto di vista mi sembra che ognuno si assume le proprie responsabilità a prescindere ovviamente dall'appartenenza politica. E certo, quello che sta accadendo sta mettendo anche in luce questa disparità che c'è oggettivamente tra i comuni medio-piccoli e le grandi realtà urbane, che nel passato hanno sempre trovato il modo per risolvere i loro problemi. Ci ricordiamo da Catania a Taranto, vabbè, ma questa è storia che in qualche modo abbiamo tutti alle spalle. Adesso si tratta di capire effettivamente che cosa succede per il futuro, e per il futuro il problema vero è quello che veniva posto prima. Qui noi non ci rendiamo conto, forse non si rendono conto, che continuando a penalizzare i sindaci e i comuni si mette in discussione, io credo, la tenuta stessa della coesione sociale di questo paese, perché il tema poi vero è questo: nella crisi chi ha cercato di affrontare con i pochi mezzi a disposizione sono stati sicuramente i comuni. Guardi, le do un dato: negli ultimi 5 anni è diminuito del 30% gli investimenti che i comuni hanno fatto nel settore delle opere pubbliche, però non è diminuita la spesa sociale che i comuni hanno mantenuto nei propri territori. Significa che abbiamo utilizzato quei fondi per riparare le scuole, per sistemare le strade, per fare quella manutenzione ordinaria che sicuramente manca oggi nelle città, per cercare di tenere un rapporto che fosse minimamente di coesione sociale sul territorio. E credo che questo sia un fatto di cui bisogna tenere conto, perché tutte le forme possibili e immaginabili non possono prescindere dall'obiettivo finale, che credo è questo di cui si sta discutendo secondo lei a Palazzo Chigi, o saremo lì a limare tra una città e l'altra e ne prendi più tu? Io temo che in questo momento non si stia discutendo di quello. In questo momento ci sono due questioni che sono sul tappeto: il miliardo di taglio alle città metropolitane e alle province, e i 625 milioni del fondo di perequazione ai mutasi, che è il tema vero sul quale probabilmente si è aperto anche in parte questo scontro. Arriveremo, credo e mi auguro, a una conclusione positiva. In caso contrario è molto semplice: i comuni non potranno fare i bilanci, venga qualcun altro a farli al posto nostro. Dino, c'è chi ci scrive: tutto sommato meglio tagliare i comuni, altrimenti c'è l'IVA ed è meno recessivo. Non c'è alternativa? O qui o lì? No, ma è proprio il punto è proprio questo. Cioè, io noto una certa contraddizione anche nella comunicazione che è stata offerta di questi ultimi giorni da parte del governo. Cioè, da un lato si dice che siamo fuori dalla crisi, fortunatamente dopo 3 anni di durissima recessione, e dunque stiamo andando verso una stagione che peraltro è favorita da variabili esterne in gran parte di crescita. E dall'altro però si dice dobbiamo comunque tagliare. Questo perché bisogna evitare che aumenti l'IVA dal 1 gennaio. Ma secondo me qui il punto di fondo è che dovremmo un po' spostare il centro di questo discorso, perché va benissimo mettere sotto controllo la spesa pubblica, fermo restando che degli 820 miliardi di cui parlavo prima ci sono 330 miliardi che sono di prestazioni sociali, vale a dire pensioni. Non è che vogliamo tagliare le pensioni in essere, per carità. E dunque bisogna fare una selezione molto accurata, ma perché mai in questo frangente così importante in cui si mette a punto la strategia economica del governo non si parla del vero grande problema di questo paese, che è che abbiamo un'evasione fiscale da 130 miliardi? Capisco che è complicato. Però quella metterla a bilancio e mandarla a Bruxelles, come dicevi prima, diventa complicato. Sì. Però se comunque cominciassimo a dare segnali forti e incisivi, da lì di soldi ne arrivano tanti, ne arriverebbero. Potremmo dare un bel segnale, cioè quello di dire finalmente a tutti gli italiani: cari italiani, noi stiamo recuperando somme a chi le tasse non le ha mai pagate, e queste somme le ridistribuiamo a chi le tasse le paga. Sarebbe un principio di equità fondamentale, invece di stare a discutere di 1,5 miliardi di tagli ai comuni che poi sono costretti a tagliare i servizi e ad alzare le tasse locali. Siamo sempre alle solite. Un'ultima battuta, Roberto Scanagatti, sindaco di Monza. Sicuro che alla fine la quadra si troverà? Non sono sicuro, nel senso che se fossi sicuro... Ottimista! Direi che sono moderatamente ottimista, ma ripeto, perché se così non fosse... ci sarebbero 1800 comuni in Italia che non potrebbero chiudere i bilanci, e in Lombardia sono più di 300, tra questi ci sarebbe anche il comune di Milano. Credo che oggettivamente questo non ce lo possiamo assolutamente permettere, quindi una soluzione la si deve trovare, e sono assolutamente d'accordo con quello che veniva detto prima. Se noi pesiamo in maniera così ridotta rispetto al totale della spesa pubblica, vuol dire che tutto sommato non possiamo essere noi il problema, e il risanamento deve essere trovato in un'altra forma, in un altro modo. Grazie allora Roberto Scanagatti, sindaco grazie di Monza, presidente ANCI Lombardia, per essere stato con noi. Grazie Dino Pesole, e grazie anche al sindaco che si prepara a protestare il 25 aprile contro i tagli, Riccardo Scunzi. E allora, tra pochissimo c'è il traffico, perché vi racconteremo anche la storia di un comune che tenta una via alternativa per risanare i conti. 24 mattino. Dove tagliare? Questa è la domanda. Basta tagli lineari, ma tagliamo ai comuni, si taglia più a Firenze e a Verona, ma anche a Monza, del sindaco che abbiamo sentito poco fa, c'è a chi andrà meglio. Come finirà questa vicenda? Tutto da capire. L'incontro, dicevamo, è in corso a Palazzo Chigi tra i sindaci e l'ex sindaco Matteo Renzi. Come risanare i conti? Allora, fantasia al potere, in qualche modo potrebbe riuscirci in altro modo il sindaco di San Giorgio in Bosco, provincia di Padova, Renato Miatello. Buongiorno. Buongiorno dottoressa, buongiorno a lei. Allora, la sua iniziativa potrebbe tutto sommato servire anche a questo, no? A colmare i tagli. Cosa avete fatto? Beh, un po' alla greca, mettiamola così, perché sì, se c'è... Diciamo che non è proprio così, ben ci guardiamo di risanare, i nostri conti sono già a posto, a prescindere dai tagli lineari di Mister Firenze Renzi, che veramente Mister ci Firenze. Sta mettendo Mister Firenze. Allora spieghiamolo un po' cosa avete fatto, un po' alla Tsipras, che sì, mentre... praticamente noi abbiamo avuto nel 29 aprile 1945 un eccidio in una frazione del nostro comune Sant'Anna Morosina, che tra l'altro era la sede estiva dei Morosini, dei famosi Morosini di Venezia. E niente, abbiamo avuto la bellezza, dico la bellezza, di 39 trucidati, ragazzi dai 15 anni fino ad anziani di 75, e li hanno portati, hanno fatti fare 12 chilometri assieme ad altri di Villa del Conte, di San Martino di Lupari, a Godego è successo l'eccidio di oltre 110 persone. Allora, in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale composta anche in ottobre dal nostro Presidente della Repubblica Mattarella, ha dichiarato illegittimo illegittima il fatto che l'esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite firmato a San Francisco il 26 giugno. Insomma, in sostanza voi chiedete i danni di guerra. Alla Germania. Chiediamo i danni di guerra per quello che è successo. Abbiamo preparato una delibera che mi autorizza a procedere in giudizio e abbiamo trovato un avvocato che si chiama Lucio Olivieri di San Benedetto del Tronto. Che vi rappresenti? Che ci rappresenta. Adesso, a titolo gratuito, per quello che è di sua competenza, e ci chiederà eventualmente se le cose andranno a le spese. Termine. Allora, la storia è un po' questa, insomma. Un po' come la Grecia, che chiede i danni di guerra alla Germania, costretta a pagare ora la crisi, c'è chi la segue. La segue, ad esempio, Mosca, che batte casse e chiede a Berlino 600 miliardi di dollari per i danni della seconda guerra mondiale, lo ha fatto Atene e lo stanno facendo anche dei comuni italiani. Miatello, speranze? Noi ci crediamo, adesso spero che anche il comune di Villa del Conte, di San Martino di Lupari, Castello di Godego ci segua facendo una delibera, poi incarichiamo questo avvocato che tra l'altro ci ha anche chiesto... Ma il ricorso dove lo fate? Stavo appunto arrivando al praticamente si svolgerà in due fasi, una avanti il Tribunale di Padova e una seconda avanti il Tribunale di Venezia, e dovremmo poi tradurre il tutto in lingua tedesca per una stima, un costo complessivo di 3.500 euro, e poi c'è da fare il discorso di corrispondere agli avvocati Ma quando avrete ottenuto, se mai otterrete questa sentenza, lei cosa farà? Prende un aereo, va dalla Merkel e le chiede di firmarle un assegno? Non voglio nemmeno conoscere la Merkel, sinceramente. Ci saranno i nostri avvocati che faranno quello che serve. Ci manda l'avvocato, ma lo manda dalla Merkel a suonare il campanello con la sentenza in mano del Tribunale di Venezia, ora datemi i soldi? L'avvocato si è reso disponibile a seguirci, tra l'altro c'è un altro comune che si chiama Fornelli, in provincia di Isernia, e non è una buttata, vorrei ben sottolineare, perché tra l'altro in virtù anche di questo eccidio San Giorgio in Bosco è stato insignito di medaglia d'argento al merito civile, quindi lo penso che ne abbiano combinate questi amici. Ma lo sa che prima di lei c'è Tsipras che vuole i soldi dalla Merkel? Vabbè, però insomma, aspetterete. Ma in Germania, Ma al di là della Grecia, che lo fa per una questione di bilancio, noi non lo facciamo per una questione di bilancio, perché i nostri bilanci nel Veneto sono a posto, i nostri comuni sono a posto. È che purtroppo noi abbiamo avuto dei morti in maniera trucidati e chiediamo solo anche una simbolica cifra, non è una questione di soldi. Quanto chiedete? È una quanto questione chiedete? Di sociale. Quanto chiedete? Adesso dobbiamo parlarne con l'avvocato. Ho mandato tutti i nostri libri che sono stati fatti nell'arco del tempo sull'eccidio e quindi poi stimerete la cifra. E poi cosa ne vuole fare? Sicuramente innanzitutto c'è un monumento. Adesso dobbiamo, siccome ricorre tra 20 giorni, il 29 aprile ricorre l'anniversario dei 70 anni. Abbiamo già messo in cantiere una spesa di circa 3.000 euro per metterlo in... è sempre a posto, ma per però dare... Però prima risalto. Del 29 aprile i soldi sono... è difficile che arrivino, no? Beh, no. Sicuramente... Non, guardi, come le ripeto, noi non ne facciamo una questione economica, ne facciamo una questione di giustizia. Di giustizia, se hanno sbagliato, devono riconoscere che hanno sbagliato, perché obiettivamente, vede, anche nel 2011... il gruppo investigativo crimini di guerra della Comando Legione Carabinieri di Bolzano, maresciallo capo Gunther Pezzei, ci ha chiesto tutta una serie di documentazioni che noi abbiamo e abbiamo mandato. Cioè non è che la cosa non è una butad, è una cosa seria. Grazie. È una cosa seria, allora vedremo come andrà a finire. Renato Miatello, sindaco di San Giorgio in Bosco nel Padovano, tutti in coda a chiedere i danni di guerra alla Germania. Non c'è solo Tsipras, anche questo succede nel mondo dei 1800 comuni italiani. Sono le 8:55 minuti, c'è il giornale radio che ci aggiornerà su quello che sta succedendo in questi minuti. E intanto grazie Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, Peter Bescapè, il nostro alpino che è qui oggi e puntuale qui anche domani. Ricominciamo dalle 6:30 con 24 mattino. Buona giornata da Anna Migliorati.